Birgitta. La casa era immersa nel silenzio. Jacob respirava profondamente al suo fianco. A periodi prendeva dei sonniferi. Non era stato difficile per Birgitta scioglierne qualcuno nel cicchetto che si faceva dopo cena. Lei era ancora sveglia, anche se il sonno la chiamava bisbigliando invitante. Sul comodino c'erano i suoi sonniferi che l'aspettavano, accanto a un bicchiere d'acqua. Jacob stava per morire, e lei avrebbe mantenuto la promessa di stargli vicino fino alla morte. L'assicurazione sulla vita che aveva stipulato sarebbe stata più che sufficiente per i gemelli, almeno finché non fossero stati in grado di mantenersi da soli. Una volta, tanti anni prima, Jacob l'aveva scelta e lei si era sentita lusingata. Da bambini ci raccontano che chi è cattivo urla e strepita, e lei aveva scambiato la sua riservatezza per bontà. Aveva pagato caro quell'errore e ne portava ancora i segni sul corpo. Birgitta scostò delicatamente la coperta, scese al piano di sotto e aprì la serratura della porta d'ingresso. Mentre risaliva al piano di sopra, entrò nello studio di Jacob. Il candelabro dell'avvento in peltro era sul davanzale della finestra. Lo avevano ereditato dalla madre di lui, insieme alle coroncine di carta rossa. Che assurdità, addobbare un portacandele con un materiale così infiammabile. 3 settimane dopo la morte di sua madre, Jacob l'aveva picchiata proprio con quel candelabro. Non in testa, no. Glielo aveva sferrato contro il torace mentre i gemelli dormivano, rompendo le 2 costole. Birgitta non aveva potuto dormire per settimane. Jacob era sempre stato capace di controllare la rabbia e lei aveva imparato a controllare il dolore provocato dalle sue aggressioni. Si domandava se fosse mai stato violento con qualcun altro, oltre a lei. Quando erano nati i gemelli, aveva avuto paura che se la prendesse con loro e si era ripromessa di ucciderlo se l'avesse fatto. Ma non li aveva mai toccati, per quanto strillassero, piangessero o facessero baccano. Prese il pesante candelabro e lo posò in cima a una pila di carte sulla scrivania ingombra di Jacob. Oltre alle coroncine rosse, era decorato con muschio e piccoli funghi di cartapesta. Stava proprio per accarezzare il muschio secco, quando sentì un rumore dalla porta alle sue spalle. «Cosa ci fai nel mio studio?»